Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in ascolto in questo momento su CRM Happy Radio. Buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento e a chi sta andando a riposarsi perché magari ha avuto un turno di notte faticosissimo. Dunque, è un giovedì pieno di sole, finalmente il torpore comincia a prenderci e la primavera comincia a farsi sentire, ma non ci bagniamo prima che piova, perché questo inverno è stato veramente particolare. Pochissimo sole, tantissimo freddo, moltissima neve. Nel futuro, almeno fino ai prossimi giorni, non si prevede nulla di eclatante, né in un senso né nell'altro. Temperature in aumento, e questo ci consente insomma di vivere anche più serenamente, nonostante i problemi e le preoccupazioni che ci sono sotto il profilo economico e questa sacca depressiva che insomma sta deprimendo anche noi, perché girando cominciamo a vedere negozi, svendita totale per chiusura attività, gente che viene messa in cassa integrazione. Insomma, non ne parliamo perché sennò veramente si entra in depressione e non faremmo un programma all'insegna di un po' di sobrietà. In realtà qual è la mansione, la funzione che hanno i mass media? Sì, certo, quello di affrontare tematiche di natura, voglio dire, anche forti, come l'economia, come il lavoro, la disoccupazione, la sanità. Però, voglio dire, bisogna anche che i nostri mass media si occupino anche di cose più soft, in modo tale che la gente, quantomeno quando ascolta un po' di radio, ascolta un po' di buona musica o guarda una bella trasmissione, si divaga un attimo e stacca la spina dai problemi che nel quotidiano purtroppo, ahimè, abbiamo. Fatta questa premessa, ospiti oggi in trasmissione, ne abbiamo due via telefono naturalmente. Un personaggio veramente interessante, è stato un grande dirigente della Fiat all'estero, ha gestito questo marchio nazionale fuori dai confini italiani per diversi anni, è una persona facoltosa, di cultura, prova ne sia che è il direttore, il titolare, insomma l'esponente massimo del caffè, caffettario La Calesa, il Calesa di Palermo, che è un vecchio maniero, insomma ristrutturato all'interno. È stato molto apprezzato, viene frequentato, si presentano libri, si fanno incontri, dibattiti, insomma è un bel centro di cultura dove veramente si veicola tanta cultura. Poi c'è un ristorante di tutto rispetto dove chi vuole può andare anche a desinare, quindi la cena o il pranzo. Il dottor Coppola invece dovremmo averlo subito, perché poi dovrebbe avere degli impegni, quindi se cortesemente la regia si predispone dovremmo sentirlo tra poco, perché poi ha degli impegni procrastinabili in scaletta, quindi dovrebbe essere il primo a sentirlo. Allora, dicevo, ha preso anche altri siti di una certa rilevanza a Palermo, il dottor Coppola, sta gestendo la Tonnara e insomma e altri siti che poi chiederemo a lui stesso cosa vuole che si veicoli all'interno di questi siti, che sono di interesse sicuramente internazionale per quanto attiene la location culturale. Che altro? Poi successivamente avremo un altro personaggio importante, è il presidente del SEL. Il SEL cos'è? La Sinistra Ecologica e Libertà, è un nuovo partito. Ha fatto una lettera alla quale ha controribattuto il segretario del PD, qui dice Falù. Poi vi do lettura di questa lettera così capiamo di cosa stiamo parlando, e l'avremo al telefono, ed è il dottor Sergio Lima. Diciamo che in questo momento c'è fermento anche politico. Su Palermo ci saranno elezioni, ma anche nelle Madonie, vedi Castelbuono, anche lì bollono molte cose in pentola. Certo, non è un buon momento per la politica. Siamo la popolazione a livello nazionale è un po' scevra, cioè nel senso che si sente molto distante dai nostri rappresentanti parlamentari. Perché? Perché purtroppo la politica ha creato un divario, penso, mi auguro colmabile, ma in questo momento è del tutto incolmabile. D'accordo, allora io dicevo, do lettura degli sponsor e poi facciamo una breve pausa, dopodiché parliamo del dottor Sergio Lima, questo personaggio che si occupa di ambiente, sicuramente si è affondato con questo partito. Parleremo di cosa si occupa il SEL, in quale direzione va e quali sono i punti cardini di questo movimento o partito, come dir si voglia. Fermo restando, come dicevo prima, che c'è questo distacco enorme anche con i politici locali, non c'è più quell'afflato che c'era una volta, quei battimani, quell'andare incontro ai senatori nostri nostri legali rappresentanti nei parlamenti. Oggi soprattutto i giovani credono di non avere punti di riferimento, nonostante molti giovani si occupano del sociale e si occupano anche di politica, sperando che cambino mentalità rispetto a noi che siamo stati coinvolti nostro malgrado nella politica, ma non abbiamo generato sicuramente nulla di positivo, fatta eccezione per gli anni 60-70, poi tutto il resto insomma è davanti agli occhi di tutti, cattedrale del deserto, miliardi sperperati in sanità, insomma non sto qui ad elencarveli perché tutti i giorni i mass media vi bombardano di queste notizie. Allora dicevo, parliamo un attimo di sponsor, parliamo del latte Bergi. Perché vi parlo del latte Bergi? Perché è un latte che viene munto direttamente dall'azienda, delle proprie stalle, dalle proprie vacche, quindi un latte genuino, pascoli delle Madonie che sono ancora incontaminate, cioè voglio dire, respiriamo veramente ancora un po' di ossigeno puro nelle nostre Madonie, nelle alte montagne che circondano i nostri paesi delle alte Madonie. Siamo a Castelbuono, pascoli quindi stupendi, foraggio che non è a contatto con infiltrazioni, insomma voglio dire di carattere chimico, ma sono organici i prodotti che fanno fertilizzare la terra in quei posti, per cui il foraggio è genuino. Quindi latte Bergi, latte che non è né parzialmente scremato né scremato, ma latte intero. Vi assicuro che ha la genuinità, il gusto dei tempi andati. Quindi latte di vacca, munto la mattina, viene imbottigliato e poi viene commercializzato. Poi vi raccomando di comprare anche, qualora lo doveste incontrare lungo il vostro percorso nei vostri supermercati di fiducia, gli yogurt, cioè lo yogurt bianco, lo yogurt alla fragola, lo yogurt ai frutti di bosco. Gustatelo perché lì veramente c'è tutta la genuinità, tutto il latte vero, la pastorizzazione, tutto quello che concerne l'attività di pastorizzazione di questo prodotto. Quindi latticini da un lato, quindi latte in bottiglia da un litro, e poi abbiamo anche i vasetti di yogurt che sono veramente straordinari. Non dimenticate questo binomio, latte Bergi, incontrate Bergi, c'è lo stabilimento a Castelbuono, strada per Geraci Siculo, scusate, andate a trovare l'azienda e lì stesso potete approvvigionarvi sia di latte che di yogurt, o se no girando nei supermercati. Quanto prima, l'azienda in fase esponenziale, avrete modo di incontrare questi prodotti che sono veramente straordinari, latte Bergi. Poi se invece volete passare un sabato, un fine settimana, oppure per l'estate, prenotare una settimana, 10 giorni di vacanza nel massimo relax, potete farlo con il Geranio. Cos'è il Geranio? Un ristorante, pizzeria, ma anche a 16 posti letto, che diventerà presto anche albergo, con 30-35 posti letto, con piscina all'interno, la ludoteca per far giocare i vostri ragazzi, il mare, pensate, è appena a 20 metri, quindi voi arrivate, avete la stanza, sotto scendendo gli scalini troverete il ristorante e la pizzeria, se di sera o il ristorante di mattina, lì all'ora di pranzo. Poi se non volete fare il bagno in piscina, sempre all'interno del Geranio potete uscire a 20 metri fuori, ci sono gli ombrelloni a vostra disposizione, le sdraio e potete farvi il bagno a 20 metri, uscite sul bagnasciuca, fate due passi e siete già nella camera da letto, vi fate una bella doccia, vi rilassate e poi pronti per il pranzo. C'è il campo di calcetto, se vostro marito o vostra moglie piace giocare a calcetto lo potete fare pure, e oltretutto c'è il forno a legna, quindi per una pizza veramente tosta vi consiglio la pizza del Geranio, che è straordinaria. Oppure i primi piatti, che sono tutti a base di pesce, siamo a 20 metri dal mare, ragazzi, non aspettate, chi vuole la carne la può anche ordinare, ma è tutto a base di pesce, la grigliata per esempio è un piatto tipico, oppure i primi piatti con gamberetti e pistacchio, che è un piatto veramente straordinario. Ricordate il Geranio, lo trovate ad Acque Dolci, incontrata Buffone Marina, accanto proprio al campo sportivo, non vi potete sbagliare, Acque Dolci, naturalmente in provincia di Messina. Detto questo, linea alla regia per una brevissima pausa musicale, al rientro cominceremo a parlare con i nostri ospiti. Linea alla regia. Sei unica guerriera, non ridi mai, prova un po' ad amare e amati di più, non è sempre uguale, lui non c'è più, è un passato da bruciare, torna ad essere di nuovo ancora tu. Io non voglio amare, solo libertà, sono chiusa a chiave e ci resterò, so di farmi male, male

Allora, dottor Lima, entriamo subito nel merito della questio, dicevano i latini. Dunque, quello è. Si parla tanto di politica, dottor Lima, si parla di distanza, di giovani, non punti più di riferimento nei confronti dei nostri parlamentari nazionali, ma anche di quelli regionali, eccetera. Quindi c'è un marasma nel campo politico. Si avvicinano le comunali, le cosiddette amministrative, Cefalù, Madonie, Palermo stesso, eccetera. Intanto, prima di entrare nel merito della sua lettera, alla quale ha risposto poi, se non erro, il segretario del locale Partito Democratico, no? Sì, ho avuto modo di leggere la risposta un po' picciata lo so. Beh, sa, la politica ultimamente, insomma, è un po' incandescente, bisognerebbe metterci un po' di acqua. Allora, dottor Sergio, andiamo per ordine. Intanto le chiedo, il suo partito si chiama, è un partito o è un movimento? Sì, è un partito. È il partito di Nichi Vendola, Claudio Fava. Sinistra Ecologia e Libertà, quindi comunque una forza politica ormai, per quanto giovane, un partito nato 15 mesi fa, sì. Però che sta dando, come dire, una scossa alla politica italiana. Per intenderci, il partito non solo di Vendola e Claudio Fava, ma il partito di Pisapia, che è il sindaco di Milano, sì. Di Zed, il sindaco di Cagliari, e il partito di Doria, che ha vinto le primarie a Genova non più di una quindicina di giorni fa. Quindi, come dire, un partito giovane che però, come dire, sta dando un impulso alla politica del centrosinistra. Posso italiano. Farle una domanda un po' così, prego. Insomma, senza pensarci su due volte. Non è che anche voi siete dei rottamatori? No, io penso che qua il tema... No, no, come dire, il sindaco di Firenze, insomma, la sta bastonando di brutto. Il vostro invece intento quale sarebbe, mi perdoni, dottore? Esattamente il contrario. Cioè, il punto non è rottamare una politica che è già rottamata di suo. Il sì. punto è costruire un'altra idea di politica. Cioè dire? Il punto è costruire un'altra idea di politica, sì. ovvero sia l'idea per cui è possibile fare sì che il centrosinistra, la politica stessa, smetta sì. di essere una cosa sporca e comincia invece a essere, per usare un'espressione del film Baria, quella cosa bella che incide positivamente sulle vite dei cittadini e delle cittadine. Credo che sia anche il motivo per cui i nostri esponenti vincono le primarie e poi vincono anche le elezioni, cioè riescono a fare percepire che è possibile fare politica non per interessi propri di bottega, ma per il bene collettivo. D'altronde anche in Sicilia, le prime primarie, secondo il gioco di parole, che si sono svolte in Sicilia, quelle di Piano degli Albanesi, hanno visto l'affermarsi di un nostro candidato rispetto sì. al senatore Garraffa, quindi credo che anche in Sicilia stia arrivando questo vento di novità e soprattutto la volontà di dare idea appunto di una politica che non rottami ma che costruisca. Credo che sia più utile costruire che rottamare. Sì, allora dunque chi ne parla non fa politica, è ovvio, non me ne interesso, nel senso non partecipo in prima persona, chiaramente chiunque nel suo modus pensandi ha una sua forma mentis nel campo della politica. Io la politica la intendo come servizio, ma la differenza tra la prima e la seconda repubblica io non l'ho proprio vista, dottor Lima. Chiedo a lei, che è un esperto nel campo, secondo lei c'è una differenza tra la prima repubblica, che è stata frammentata in mille pezzi da Mani Pulite, si è ricostituita questa prima repubblica, o invece in effetti si può parlare tranquillamente di seconda repubblica, cosa che a me sembra un po' fuori luogo? Una forzatura. Intanto una premessa, noi siamo un partito giovane anche nei gruppi dirigenti. Io faccio il segretario provinciale, ho 33 anni, il nostro segretario regionale ne ha 30. Ah, ecco. Quindi nel giorno di Mani Pulite noi eravamo poco più che bambini. C'è però un segnale che, al di là dei numeri, no? Prima, seconda, terza, sì, ennesima sì, repubblica, sì. Il punto è che determinate dinamiche non sono cambiate. Non è un caso se oggi chi sta in Parlamento spesso e volentieri sono le stesse persone che già ci stavano quando c'era la prima repubblica, per sì. usare, come dire, questo termine che lei ha voluto utilizzare. Il dramma è che paradossalmente, se negli anni appunto pre-Tangentopoli comunque la politica era vista, come al di là di tutto, come una grande forma di partecipazione, c'erano i grandi partiti di massa, c'erano i sindacati, tutta una serie di strutture che comunque tenevano viva anche un'idea nobile della politica, sì. negli anni del berlusconismo, usiamo questa espressione, la politica è sempre più diventata più che servizio, ma servizio a proprio interesse, e l'aumento degli scandali, paradossalmente, ci indica questo. Se posso dire una battuta. Prego. Noi oggi ci troviamo in una condizione in cui il numero di parlamentari, ad esempio in Sicilia, sì, sottoposti all'ARS, sottoposti all'accertamento giudiziari, addirittura sì, in alcuni casi arrestati, in alcuni sì, casi si arriva all'assurdo per cui alcuni parlamentari non possono neanche venire a Palermo a fare i deputati perché hanno l'obbligo di dimora. Bene, non capisco la differenza, ecco, dal punto di vista dei comportamenti rispetto a quella che è stata la cosiddetta Prima Repubblica. Lei dice c'è una questione morale, ma di cui tanto se ne parla, enorme, insomma. Enorme. La fermo un secondo. Una questione morale enorme che non è mai stata affrontata e credo che non si possa affrontare con la ghigliottina, ma affrontato dalla politica. Soltanto la politica può essere in grado, come dire, di risolvere il proprio problema morale, altrimenti avremo sempre meno partecipazione e paradossalmente al diminuire della partecipazione sta aumentando il numero di casi limite, di malaffare e quant'altro. Dottor Lima, lei è giovanissimo, per cui voglio dire... Io sono giovanissimo pronto... solo in Italia, perché ho avuto la fortuna, come dire, di viaggiare un poco, e quest'idea per cui a 33 anni si è sì, giovani, è un'idea tutta italiana. No, a 33 dico, anni nel resto d'Europa mi si perdoni, è... mi perdoni, non era... No, è per mettere, come dire, in evidenza... La straordinaria capacità della politica italiana. Scusi, sa perché l'ho fatto, le ho detto che lei è giovane? Perché io dall'alto dei miei 53 anni, io la vedo giovane. Io se avessi 33 anni quanto lei mi sentirei un papa, per parafrasare. Però voglio dire, è un senso positivo, cioè nel senso positivo della parola, essendo giovane, non inesperto, è un'altra cosa. Ma essere giovane... No, ho capito questo, però era proprio per sottolineare, le faccio un esempio veloce. Sì. L'età media dei ministri del governo danese sì, è di 40 anni. Oh, l'età media dei ministri del governo italiano storicamente 40 anni, quasi il giovane di turno. Dottor Lima, lei pensi che io mi auspico di avere presidente del Consiglio un 42enne e un presidente della Repubblica massimo 50enne? Perché, guardi, glielo dico senza, voglio dire, buttare epiteti o quant'altro nei confronti delle istituzioni, me ne guarderei bene perché sono uno che le regole le rispetta nel limite del possibile, per cui nulla contro Napolitano, per carità di Dio, nulla contro Pertini o chi nel tempo è andato a gestire la Res Pubblica come capo, come primo cittadino italiano, ci mancherebbe altro, il massimo rispetto, perché l'anzianità comporta anche un bagaglio di esperienza, no? Da poter dare agli altri, però la nostra Costituzione secondo me in alcuni punti è fatta molto ma molto male. Non è vero che un quarantenne non può essere maturo per gestire la Res Pubblica, come non è vero che un ottantenne può essere demente e non è in grado di gestire, non è quello. Così come vale anche al contrario. Perché bravo. Nella mia attività spesso ho conosciuto persone anagraficamente giovani ma politicamente molto più anziane. Sarebbe auspicabile non solo che gli esponenti massimi dei partiti siano più pimpanti, più vivi, portando nuova innovazione di idee all'interno di un partito, non, senza nulla togliere a chi ha fatto politica per 50 anni, ma onestamente ormai i vari Andreotti e compagnia bella sarebbe il caso di veramente di metterli un attimino da parte. Ci sono tantissimi giovani, anche meno giovani, con capacità di innovarsi, che sono straordinari e purtroppo gli viene dato spazio. Chiusa questa parentesi, questo è il mio modo di pensare, dottor Lima. In buona parte lo condivido. Oh. Allora, qui il vostro movimento, c'è scritto anche ecologia. Stiamo in un momento nel quale con l'ecologia si sono fatti miliardi, no? Parliamo di discariche abusive, parliamo di depauperazione di fette di territori italiani che sono stati depauperati nel nome degli smaltimenti dei cosiddetti rifiuti tossici speciali nocivi. Il vostro movimento, il vostro partito per l'ecologia cosa propone? Quali sono le differenze con gli altri, gli altri partiti? Io credo che i nomi siano importanti. Noi abbiamo scelto questo nome Sinistra, Ecologia e Libertà, sì, tra l'altro la congiunzione, perché crediamo che le tre cose vadano assolutamente insieme. Lei giustamente diceva, parlava del fenomeno per cui il territorio siciliano ma italiano in generale è stato devastato, sotto gli occhi di tutti, ahimè. Devastato, e quello ha comportato non solo la devastazione del territorio, le faccio un esempio per essere rapido e stare anche nei tempi di una diretta radiofonica. Oh. Aspetta un attimo che, ecco, spero mi senta. Dicevo, pronto? Prendete il territorio, c'è un elicottero sopra la testa, prendete il territorio di Termini Imerese. Il bello della diretta. il territorio di Termini Imerese è stato devastato per impiantare in quel territorio una serie di attività industriali. Tutti pensiamo alla Sicil Fiat, ma non solo. Ora che quelle attività industriali non esistono praticamente più, quel territorio è comunque devastato. Il problema qual è? Che se noi pensiamo che possiamo spremere i nostri territori, il nostro paesaggio, come un limone, levando tutto quello che si può fare, dal, appunto dal paesaggio, alle falde acquifere, alla, al mare, alla costa, e poi dopo questo abbiamo soltanto un ritorno per cui le aziende pigliano e vanno via, e allora abbiamo fatto un errore due volte. Non solo non abbiamo creato sviluppo, bravo, ma abbiamo devastato il territorio, bravo, dove tutti ognuno di noi vive. Per me l'ecologia è quella, cioè significa come utilizzare il territorio, non come appunto un limone da spremere, ma se posso sempre qua usare una metafora, come un giardino da annaffiare e da curare. Dovremmo avere cura del nostro territorio, perché quello significa non solo un miglioramento della qualità della vita, ma significa soprattutto una possibilità di sviluppo. Una regione come la nostra, un paese come la nostra, che non investe nell'ecologia, nel suo paesaggio, nel suo territorio, è un paese che non ha un futuro, perché prima o poi questo territorio sarà tutto, come dire, ridotto a un'immensa discarica, e alla fine ci ritroveremo con, da un lato, con gli interessi anche della mafia, che su queste cose specula in maniera, come dire, esponenziale. Tante indagini attualmente in corso vanno in quella direzione, hanno scoperto come la mafia sta utilizzando il business dei rifiuti piuttosto che quello appunto della speculazione sul paesaggio, e dall'altro lato noi quel paesaggio avremo bisogno di 20 anni, 30 anni per recuperarlo, se tutto va bene. Dottor Riva, devo fermarla perché ci sono tre domande e dobbiamo poi centrare il punto della questione. Allora, mi fermo. No, la devo fermare perché sennò qui lei dovrebbe venire qualche giorno, quando vuole. Guardi, ogni giovedì noi siamo qui a sua disposizione, noi diamo voce a tutti quanti, le persone che hanno delle prospettive, voglio dire, da poter sottolineare ai radioascoltatori. Siete persone, voglio dire, amabilissime, per cui non abbiamo nessuna difficoltà ad ospitarvi. Io la ringrazio. Ci mancherebbe altro, ognuno poi sa, ha il diritto di dire la sua, si può essere d'accordo o no, però è giusto aprire il microfono a tutti quanti. Io la penso in questo modo, sono democratico da questo punto di vista. No, anche perché dal dialogo poi magari si trova il modo di venirsi incontro, è chiaro che sia anche una cosa che in politica serve molto. Bravo. Piuttosto che avere troppe certezze assolute. Idee chiarissime, dottor Rima, su questo non avevo dubbi. E due domande di molto stringatamente, mi raccomando la risposta, dottor Rima. Allora, dunque, governo Monti non è appoggiato dalla vostra parte, forse un po' avversato, articolo 18 sì, articolo 18 non si tocca, ci sono ancora queste diatribe, noi andiamo avanti lo stesso, dice il governo, nonostante le parti sociali non siano molto d'accordo a toccare l'articolo 18. Secondo un suo modesto punto di vista, questo governo, io non posso esprimere la mia, glielo dico molto tranquillamente, a me non piace molto questo governo, anche se sta facendo forse bene per l'Europa, ma mi sa che è lo specchietto per le allodole. Diciamo che siamo in depressione economica e lo spread sta salendo, così spremiamo ancora di più i poveri disgraziati con tasse e sovrattasse e gasolio alle stelle, e poi vediamo quello che c'è da fare per rimpinguare le tasse dello Stato. Questo è il mio parere. Però vorrei sentire la vostra parte, che in contrasto con il resto della sinistra, che sta appoggiando parimenti al PDL questo governo. Qual è la vostra posizione? Semplicemente, rapidamente, il governo Monti ha una cifra, come dire, stilistica che è lontana anni luce da quella di Berlusconi. Non abbiamo più, come dire, gli scandali che riguardano la vita privata di Berlusconi o altre vicende simili, ma dal punto di vista politico, cioè dal punto di vista degli effetti della politica sulla vita sociale di noi, di tutti, diciamo, noi sociale. L'effetto è identico, cioè la cifra politica rimane la stessa. Abbiamo un governo che sta pensando di fare cassa, capiamo bene l'esigenza, ma sta pensando di fare cassa colpendo sempre i soliti noti. L'introduzione, come dire, di un sistema di tassazione sulla prima casa è una cosa che non, a prescindere, ecco, anche dalle dimensioni. Per cui alla fine io posso essere, come prima casa, avere una stanzetta di 40 metri quadri o un castello di 6.000 metri quadri, al di là della differenza che pagherò, l'idea per cui alla fine quasi quasi io debba essere, come dire, penalizzato per avere il possesso di una casa che magari mi è costata anni e anni di sacrifici, è un'idea folle. Dottor Rima, quanti genitori zappando, guardando gli animali, i cosiddetti pastori, si sono fatti una piccola casa, con tanti stenti e sacrifici hanno studiato anche i propri figli. Quanti? Questo è un paese in cui i sacrifici degli italiani sono stati per anni e anni e anni l'unica cosa che ci ha consentito di sopravvivere anche a una classe politica spesso e volentieri inetta. Detto questo, noi non possiamo prendere il sacrificio, il sudore della fronte di milioni di italiani e sacrificarlo sull'altare, non si capisce. La fermo con queste bellissime parole. La fermo con queste belle parole, mi trova pienamente d'accordo con lei. Ci sarebbe molto da discutere e mi auguro che lei possa venire ospite qui in trasmissione da me per un'intera ora, così parleremo di molte cose e chiariremo molte cose insieme, dottor Lima. Allora, lei ha scritto una bella lettera, io l'ho letta l'altro giorno e la rileggo per gli ascoltatori della fattispecie di Cefalù, perché qui è diretta. Allora, il grandissimo successo, dice il dottor Lima, di partecipazione per le primarie del centro-sinistra a Piana degli Albanesi, conferma l'importanza dello strumento partecipativo per la scelta del candidato del centro-sinistra stesso. Un metodo, continua la nota, che come SEL, cioè il Sinistra Ecologia e Libertà, crediamo vada adottato anche a Cefalù, uno dei principali comuni al voto in primavera, anche per consentire alla coalizione di presentarsi unita e forte. Lo dichiara, come dicevo prima, lo stesso dottor Lima, che è il coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, che prosegue: non capiamo la paura e la retrosia da parte dei nostri alleati del Partito Democratico nel consentire al nostro popolo di esprimersi sulla scelta del candidato. Una retrosia, continua la nota, che riteniamo essere un grave errore politico e che rischia di mettere in crisi il lavoro unitario che si è provato a portare avanti. Auspichiamo, conclude la nota, che nei prossimi giorni la situazione possa sbloccarsi positivamente. In tal senso lavoreremo attivamente, dice il dottor Lima. Da risposta a questa lettera, caro dottor Lima, lei la citava prima, è stata un po' piccante da parte del segretario locale del PD, parliamo sempre di Cefalù. E allora la risposta è questa, lo leggiamo per i radioascoltatori. C'è un comunicato stampa, la direzione della segreteria dice: saremo stati lieti, in risposta alla missiva del dottor Lima, di confrontarci con loro, dice la nota, se nel recente passato avessero avuto una presenza meno sporadica in città. Non capiamo, dice ancora la nota, poi il richiamo al tema delle primarie, vista l'assenza nei mesi che ci hanno preceduto di una proposta di candidatura alternativa alla nostra. Tranne che non ci si riferisca a quella avanzata dal Movimento Cefalù Possibile, che però nel tempo ha più riprese dichiarato di non avere logiche di schieramento e di rivolgersi dunque indistintamente sia al centro-sinistra che al centro-destra. Ha firmato Vincenzo Garbo, che è il segretario del PD. Dunque, di Cefalù è stato già deciso, il candidato era del sindaco di Cefalù era Rosario La Punzina del PD, e quindi a questa risposta così piccante, dottor mi perdoni, Lima. Dottor Lima, cosa risponde invece il suo movimento e lei che ne è il coordinatore provinciale? Ma io l'ho letta, devo dire, l'ho letta più volte perché non volevo credere alle parole che è avevo. È rimasto un po' basito. Ma sì, perché il Partito Democratico giustamente ha pieno diritto ad esprimere una candidatura che tra l'altro io ritengo una candidatura assolutamente valida per la storia e l'attività della Punzina, sì. Esattamente in questi anni di opposizione. Noi non abbiamo posto il tema di un confronto fra il nostro partito e il Partito Democratico. Noi siamo convinti, ma questo devo dire, basta leggere i giornali per rendersi conto, che i partiti, da Sinistra Ecologia e Libertà, il Partito Democratico, Italia dei Valori, insomma lo schieramento del centro-sinistra, per sì. La foto di Vasto per intenderci, sì. È di suo insufficiente per cambiare le cose, soprattutto in territori complicati. Cioè, solo io vorrei ricordare al Partito Democratico che è da 20 anni e passa che le forze di centrosinistra non vincono le elezioni, quindi evidentemente, come dire, qualcosa che non fa, c'è. Dovrebbe fare una riflessione, ecco. Questo è quello che lei vuole denunciare, no? C'è qualcosa. No, non è una denuncia, è un dato di fatto, e io non è che mi sento, come dire, assolto da questo, la mia parte politica non è che si sente assolta da questo. Rispetto appunto alla candidatura del dottor Lapunzina, c'è un pezzo di società che, ripeto, non è il partito SEL, non è che SEL dice noi abbiamo un candidato, confrontiamoci. Noi ripetiamo che ci sia necessità di un metodo partecipativo, perché il Partito Democratico, ma vale per tutti i partiti, da soli non possono pensare, come dire, di rappresentare la totalità di un progetto. E allora, piuttosto che una sfida all'ultimo sangue, noi abbiamo, e continuiamo a dire, pensiamo che lo strumento delle primarie, cioè quello per cui alla fine, al di là dei partiti, sia il nostro popolo, il popolo del centro-sinistra, a indicare quale sia il candidato più rappresentativo, sia uno strumento per forza la coalizione, Su questo, come dire, noi siamo convinti che ci sia la possibilità di trovare, come dire, un elemento che ci consenta di scegliere il miglior candidato sindaco, di essere, come dire, unitari e, aggiungo, di vincere le elezioni, perché non sarà un caso se da quando abbiamo utilizzato lo strumento delle primarie in comuni, come dire, storicamente non di sinistra, l'esempio più famoso è quello di Milano, no? Sì. Comune dove c'era un'amministrazione da sempre di centrodestra, in cui però le primarie, la vittoria di Pisapia, la capacità, come dire, di intercettare pezzi di società che erano al di fuori delle logiche di appartenenza dei partiti, ci hanno consentito di vincere. Credo che sia, come dire, un'opportunità che il Partito Democratico dovrebbe cogliere, non vederla, come dire, come un'invasione di campo. Ho capito. Altrimenti c'è un'idea di autosufficienza, ma ripeto, io sono un piccolo partito e non ce l'ho, ma anche un partito grande come il Partito Democratico, un partito importante, strutturato, anche da lui da solo non può pensare, come dire, di vincere le elezioni. E aggiungo una cosa velocissima: dove vincere per me non significa avere un voto più dell'avversario, vincere significa essere in grado di far trionfare un progetto politico alternativo per fare le cose, altrimenti quella è una partita di calcio in cui basta vincere al 91esimo con un gol in fuorigioco e comunque sei contento e hai preso i tre punti. No, quello in politica è una cosa un po' più complicata. Dottor Lima, quello che è successo negli ultimi tempi con la politica, che sinceramente viene voglia di spegnere i televisori perché è diventato un salotto e basta, cioè la gente ha bisogno, ma veramente glielo dico col cuore, dottor Lima, di vedere accanto. Intanto bisognerebbe cambiare questa stramaledetta legge elettorale, perché così non abbiamo punti di riferimento sul territorio. Noi abbiamo bisogno, noi cittadini normali, abbiamo bisogno di avere i nostri punti di riferimento, i nostri referenti vicini, in modo tale da esternare quali sono le tematiche, le problematiche che nel quotidiano noi dobbiamo affrontare. È una necessità di partecipazione. Se non cambiate, se voi politici non cambiate questo, vuol dire ancora il bipartisan qui non c'è. Cioè il PDL dice va bene, per noi non ci sono problemi. Il PD dice ok, per noi non ci sono problemi. Italia dei Valori noi. Però poi quando c'è da decurtare, da tagliare, non sono d'accordo nessuno. Allora, o decidono di fare veramente un raggio X, togliendo le sporcizie, le cose che ci sono, e ci rimettiamo in corsa di concerto con il popolo, o altrimenti veramente rischiamo, o rischiate voi che fate politica attiva, di non vedervi circondato d'affetto da parte di chi poi deve essere il vostro elettore. Ma guardi, le posso dire questo, io credo davvero che se la politica non ritorna a essere, come dire, uno spazio pubblico occupato dai cittadini, non ha più senso, diventa semplicemente un'amministrazione tecnica della cosa pubblica. Poi uno lo può fare bene o meno bene, ma dal punto di vista, diciamo, mio, per la politica, quella non è più una cosa utile. Il risultato ovviamente è la disaffezione. Per questo noi non capiamo perché il Partito Democratico non sia disponibile, e stiamo lavorando per invece far sì che lo sia, a un confronto che metta in condizione il cittadino del centro-sinistra, che non è iscritto a un partito, che si sente di centro-sinistra ma non ha una tessera di partito in tasca, di poter dire la propria. Altrimenti, onestamente, noi non possiamo rivolgerci agli elettori soltanto pensando di chiamarli a raccolta per le elezioni. Cioè, o noi costruiamo un rapporto continuo con i cittadini e le cittadine, oppure non ce la facciamo. Poi ripeto, possiamo anche vincere le elezioni, ma non mi interessa, diventa, come dire, semplicemente il fatto per cui invece di essere Tizio e Caio nella stanza del Consiglio Comunale ci saranno Sempronio e qualcun altro. E cambiando gli ordini di addendi il prodotto poi non cambierebbe. Stiamo vedendo, l'esempio che facciamo su Monti. Monti è sicuramente una persona più autorevole, più, come dire, più affidabile rispetto a Berlusconi, ma per la signora che deve andare a ritirare la pensione, poco importa se quella pensione la trova diminuita perché il Presidente del Consiglio si chiama Berlusconi. No, non gliene frega niente, gli interessa avere a disposizione, cioè la gente deve capire, dottor Lima, poi chiudiamo l'appuntamento perché ho un altro ospite dopo di lei, non perché mi dispiace parlare, anzi le darei spazio chissà per quanto tempo, perché abbiamo identità di vedute, vedo. Un'altra cosa che mi spiace è che la gente non è più proprietaria dei propri soldi, cioè si va in banca, non puoi più prelevare più di 1.000 euro, devi giustificare, cioè stiamo rasentando veramente, qua siamo sotto dittatura, non è più democrazia, abbiate pazienza. Questa è dittatura, parola, belle buone. Non un po' pesante, il problema è che non tutti come dire, questo è un paese in cui in pochi detengono quasi tutta la ricchezza del paese. Questo è un elemento, come dire, che mi preoccupa molto di più. Ma andiamo a attaccare quelle ricchezze, abbiate pazienza. Mi ha attaccato la pensionata che, poverina, gli servono 1.000 euro per pagare il muratore e si sente dire per quale motivo le servono i soldi. Ma siamo in dittatura o i soldi sono miei? Ma cioè, questo capisce che c'è un'incongruenza. Appunto le storture per cui... la dico qua anche con una battuta, anche per salutarci, non credo che servisse andare a cercare un luminare dell'economia per fare una manovra economica in cui si aumenta la benzina, si aumentano le accise e si vanno a colpire i redditi del lavoro dipendente. Io sono contento delle operazioni della Guardia di Finanza che stanno portando alla luce tanti elementi, però dallo stesso punto io continuo a dire non capisco perché non si riesca, come dire, a recuperare un po' di denaro dei grandi patrimoni, e questo diventa, come dire, una cosa che dà anche un elemento di ingiustizia sociale che fa sì che anche i sacrifici che si chiedano non siano fatti, come dire, con quella fiducia che invece magari potrebbero essere fatti qualora ci fosse l'idea per cui sì, io pago qualcosa da pensionato, da lavoratore dipendente, ma so che, uso una parola un po' desueta, il ricco sta pagando anche lui. Qua invece continuiamo a fare pagare sempre Pronto? I soliti, come dire, non credo che ce la faremo per molto così. Pronto? Sì, mi sento. Ah, no, c'è stato un momento di stand by. Allora, dottor Lima, intanto, oltre a ringraziarla per la sua partecipazione, voi, ovviamente. No, ma ci mancherebbe. Noi restiamo sempre a disposizione qualora lei decidesse di venirci a raggiungere i nostri studi per farci una bella chiacchierata, magari confrontandovi con altre forze politiche, perché no, per far capire alla gente quello che in questo momento politicamente sta succedendo. Chi si occupa di mass media sa quello che sta succedendo, perché seguiamo in lungo e largo tutti i colleghi, eccetera. Quindi le notizie non è facile che ci possono imbrogliare, però il povero Cristo di 82 anni, il povero pensionato di 82-86 anni non si rende conto e non riesce a capire. L'augurio che io mi faccio, sa qual è, dottor Lima, mi consente un'ultimissima battuta prima di congedarla, è quello che la gente possa percepire che lo Stato non è il nemico che ti spreme le meningi, che lo Stato non è la guardia di finanza che ti viene a fare il blitz lì davanti a tutti, perché queste cose sono soltanto dimostrative e non dimostrano nulla, perché non si batte l'evasione fiscale con lo scontrino, abbi pazienza, e non si batte l'evasione fiscale venendo nel frantoio per capire quanti in 2 mesi di lavorazione di un frantoio, quanto tu ti sei fregato lo Stato, che poi possono essere 1.000-2.000 euro, giù di lì. Ma l'evasione fiscale si batte con l'equità sociale, cioè dire, se io mi accorgo che il ministro si toglie 15.000 euro di tasca e se ne tiene 10.000, che l'azienda che ha la Fiat che produce miliardi si decurta, allora lì io capisco, e poi le autostrade funzionano, le ferrovie funzionano, gli aeroporti funzionano, cioè qua, gli uffici pubblici. Bravo, lei l'ha detto in un'unica parola, i servizi mancano. Allora perché io devo decurtare il mio portafoglio, devo pagarti le tasse, per quale ragione? Qual è il dout des? Io do, ma l'utilizzo qual è? La famosa equità promessa che non si vede, ma non si vede perché non c'è. Lei lo diceva benissimo. Quello è. Se io mi accorgo che se mentre io ti pago le tasse lo Stato sperpera da un'altra parte i miei miliardi messi tutti insieme del popolo italiano, ma io non ti pago nulla. E come vuoi togliere il sommerso? Come lo vuoi togliere? Non creando posti di lavoro o vessando le aziende che poi devono pagare milioni e milioni, il 48% di aliquota? Così vuoi togliere il sommerso? Allora non hanno questa volontà, secondo me. Hanno la volontà di spremere, fare soldi per divertirsi ancora. E mi sa che la gente questo l'ha capito, dottor Lima. Ma la gente, io la saluto con questo che battuta. La gente, che poi a me non piace come termine, il popolo. Il popolo, chiamiamolo il popolo. I lavoratori, gli onesti. Grazie al cielo è molto meno stupida di quello che spesso la politica pensa. E io mi auguro, come dire, è un elemento positivo. Io mi auguro che un pezzo del genere. Lei mi insegna, nella storia ci sono state delle rivolte, mi auguro che non si arrivi a cose cruente, ma guardi che c'è gente molto ma molto disperata, dottor Lima, e non sopporta più ulteriormente altre vessazioni. La gente è arrivata, quindi mi auguro che la nuova politica, le faccio tantissimi auguri per il suo partito, che possa andare avanti, che possa portare le proprie idee in avanti sempre, coinvolgendo sempre più giovani, perché i giovani sono la speranza del domani, formandoli nella giusta direzione, non creando, voglio dire, come è stato fatto nel passato e anche nel passato più recente, creando le poltrone per poi andarci a sedere e fregarcene tutto quello che ci circonda. La politica deve tornare ad essere a servizio, come lo era un tempo il Partito Comunista o il Movimento Sociale o i socialisti, si mettevano lì a fianco con i propri elettori, porta a porta, creando la CGIL, cioè aggregando, non disgregando. Creando una struttura per cui alla fine la politica non era una cosa dei tecnici, ma era una cosa di massa. È quello su cui credo che sia, ecco, questa è una delle chiavi per uscire dalla crisi. Per questo anche noi chiediamo, continuiamo a chiedere le primarie anche a Cefalù, perché quello diventa un metodo per fare partecipare. Molto democratico, tra l'altro. Dottor Rima, la ringrazio della sua partecipazione. Spero di potervi sentire presto di nuovo. Ma volentieri, le ricordo che io vado in onda ogni giovedì. Se le piace il mio modo di parlare, il mio modo di fare, beh, siamo a sua disposizione. L'editore è una persona straordinaria. Ci venga a trovare, preventivamente ci avvisi naturalmente, saremo lietissimi sì, di ospitarla. Le faccio tanti auguri per il suo partito e naturalmente ci auguriamo che le cose nel futuro possano cambiare. La ringrazio, buon lavoro. Buon lavoro a lei e al suo partito, dottor Rima. Grazie ancora. A risentirla. Allora, prima di passare la linea alla regia, c'è anche un bel brano da ascoltare, ve lo propongo tra poco. Bisogna parlare di 2M, che sono porte che arredano, pensate. Lo trovate a Castelbuono in esposizione in via Cavour 74, invece la produzione è incontrata a San Calogero. Ci sono una vastissima gamma di porte di interni con ciliegio oppure il palessandro. Poi c'è una porta in rovere massiccio, pensate, a sole 600 euro con incluso il montaggio. Poi ci sono le porte fuori misura, ma anche l'arredo casa, la cucina, la camera da letto, gli armadi, potete farli su misura tranquillamente chiamando però preventivamente lo 0921 67 70 12. Fissatevi un appuntamento, andate a trovare 2M porte che arredano a Castelbuono. C'è una vastissima gamma anche di maniglie, per cui basta soltanto mettersi in contatto, fissarsi l'appuntamento, perché è un'azienda che lavora moltissimo e ha poco tempo da poter dedicare ai clienti che arrivano. Quindi chiamate prima, fissatevi l'appuntamento e poi lo showroom e la produzione è a vostra totale disposizione. Piscitello Preziosi, lo so, abbiamo parlato poco fa di momenti di crisi economica, di licenziamenti eccetera, però un regalo vale sempre la pena di farlo, anche se costa relativamente poco. Lo trovate Piscitello Preziosi in via Corso Umberto 1 a Gangi. Vi do il telefono 0921 644 327 oppure www.piscitellopreziosi.com. La gioielleria con i solitari Cometa Gioielli di Nardelli e Donna Oro sono le firme più prestigiose. Per quanto attiene invece l'orologeria, pensate, abbiamo Philippe Watch, Bresson e Sector. Per quanto attiene invece l'acciaio, insomma gli orologi in acciaio, Guess Nomination, Alviero Martini e Roberto Cavalli. Le linee capezzali poi sono olio su tela. Per tutto questo visitate il sito che ho appena detto, www.piscitellopreziosi.com, oppure andate direttamente a Piscitello Preziosi in via Corso Umberto 1 a Gaggi e portate a casa veramente un pezzo straordinario per far sorridere la vostra lei o il vostro lui. Io mi fermo qui, vi annuncio però un brano molto bello. Dunque, c'è un brano dedicato a te, si chiama così, i testi sono stati scritti da Salvatore Gugliuzza e Giuseppe Passafiume. Dunque, ed è eseguita questa canzone da Totuccio Curreri. Linea alla regia. Del mio cuore è dedicato a te, ogni alito della mia anima è dedicato a te, ogni istante della mia vita è dedicato a te. Sempre, per sempre ti amerò, sempre, per sempre ti desidero, sempre, per sempre ti vorrò. ogni tuo sorriso la mia vita si accenderà. Ad ogni tuo gesto la mia vita volerà. Ad ogni tuo sguardo la mia vita splenderà. Sempre, per sempre ti amerò. Sempre, per sempre ti desidererò. Sempre, per sempre ti vorrò. Tu sei le mie emozioni, tu sei i miei sogni, tu sei i miei desideri, tu dai vita alla mia vita. Sempre, per sempre ti amerò. Sempre, per sempre ti desidererò. Sempre, per sempre ti vorrò. Sempre, per sempre la mia vita ti dedicherò. Allora, rieccoci in studio. Vi ricordo che state ascoltando Carta e Penna, il programma ideato e condotto in studio da Filippo Glorioso. Invece alla console c'è sempre il nostro amico Raul Bova, che saluto, ogni tanto si distrae, ma insomma è così. Dovremmo avere il secondo ospite in diretta radiofonica tra poco. Vi avevo già annunciato la presenza, speriamo che non ci siano problemi, perché comunque è una persona che si muove molto, ha molti interessi. Tra l'altro gestisce il Calesa, questo grande caffè letterario, un antico maniero ristrutturato, devo dire egregiamente, dal dottor Coppola. E poi la Tonnara, che è un ristorante con appena 100 posti a sedere, ma è un posto straordinario, due passi dal mare, sotto Monte Pellegrino, ed è una location di tutto riguardo e di tutto rispetto. Il dottor Coppola oltretutto veicola all'interno del Calesa molti appuntamenti importanti, presentazioni di libri, presentazioni in anteprima di film, ma anche dibattiti per quanto attiene tematiche attinenti alla medicina, alla politica e a quant'altro. Per cui è un contenitore anche musica di nicchia, musica tipo il jazz, tipo il blues, ma anche, voglio dire, musica classica con concertini di archi o di pianoforte. E devo dire, chi vive a Palermo ha veramente una chance in più per passare un sabato sera, un venerdì sera, ma perché no anche un mercoledì o una domenica, all'insegna di un sanissimo divertimento e della cultura in generale. Considerazioni, chiudiamo col discorso della politica, ma questa è purtroppo d'attualità. Abbiamo sentito poco fa il dottor Lima, ha fatto delle considerazioni soprattutto nei confronti del Partito Democratico qui a Castelbuono. Qualora il segretario della locale sezione del PD volesse controbattere, i nostri microfoni sono aperti, i nostri telefoni sono a disposizione, può telefonare tranquillamente e faremo sì di fare il contraddittorio, perché è giusto che in democrazia c'è chi lancia delle proposte, e dall'altra parte, se non sono ben accette, è anche giusto, insomma, che se ne parli, perché no, informando la cittadinanza anche per mezzo radiofonico, che è quello che in questo momento c'è. Cioè, Cefalù, non abbiamo la televisione, anche anzi noi l'abbiamo all'interno del web, però voglio dire, è un mezzo di diffusione massima ed ascolto. Allora, dovremmo avere in diretta radiofonica il dottor Francesco Coppola, che ringrazio e saluto per aver accettato l'invito. Dottor Coppola, buongiorno. Buongiorno. Oh, come sta stamattina, dottor Coppola? Bene? Bene, bene, grazie. No, ma insomma, io sono un po' stanco, sono anziano, lei è giovanissimo, è pimpante, dinamico, per cui voglio dire, io che l'ho conosciuta personalmente, ho avuto questa grandissima opportunità di conoscere un personaggio, perché di questo si parla, una persona di ampio respiro culturale, una persona che è stata investita da incarichi istituzionali non di poco rilievo, ma di grosso rilievo. Lei è stato, se non erro, uno dei dirigenti fuori dai territori italiani della Fiat all'estero, per cui no, sbaglio? No, ma tanto tempo fa, però molti anni fa, è stata un'esperienza, voglio dire, anche quella, per cui per accedere a determinate posizioni bisogna avere, insomma, del bagaglio culturale, bisogna avere il bagaglio tecnico, ma soprattutto bisogna avere tutti i santi crismi per poter essere in quelle posizioni, e lei tutti questi ce li ha. Dicevo ai radioascoltatori, prima che noi ci mettessimo in contatto con lei, che lei in questo momento ha preso in mano il Calesa di Palermo. Spieghiamo a chi non lo conosce, saranno pochissimi a non conoscerlo, questo grandissimo centro di cultura, io l'ho definito così perché oltre al ristorante dove chi vuole può andare a cenare o a pranzare, ma si veicola cultura, si fanno rappresentazioni di vario genere, si rappresentano libri, si fanno tavole rotonde, si fanno dibattiti, si ascolta anche della buona musica. Dottor Coppola, come le è venuta in mente di prendere questo maniero, ristrutturarlo, e poi con le difficoltà oggettive che oggi ci sono, la burocrazia, ne parlavamo proprio ieri, mettersi a tu per tu con la burocrazia pur di gestire questo grande caffè letterario stupendo, meraviglioso, e chi gliel'ha fatto fare, scusi? Qual è stata la molla che le è scattata dentro? La molla è stata un bando urban sulla riqualificazione del centro storico di Palermo del 2000, quindi parliamo ormai di 12 anni fa. C'era questo bando in città destinato a operatori che volessero fare iniziative nel centro storico di Palermo, nella zona verso il mare. Io ho partecipato, ho individuato questo spazio alla casa abbandonato, cioè più che abbandonato, era stato in pessime mani fino a pochi anni prima e poi abbandonato. E ho pensato che potesse essere anche simbolicamente, visto che sta attaccato a Porta dei Greci, a questa porta cinquecentesca della città, un luogo da rilanciare. Poi il tempo mi ha dato ragione, che la casa è diventata uno dei quartieri più vivi di Palermo, all'epoca non lo era, e così è nata l'idea. Senta, dottor Coppola, lei oltre al Caffè Letterario, dove torneremo tra poco a parlare, ha un'altra bella location sotto mano, cioè dire la Tonnara, che è allocata sotto Monte Pellegrino. Vogliamo parlare anche di questo sito, perché non è da meno del Calesa. Sì, questo è molto più recente, è un'iniziativa che abbiamo cominciato nel 2005, che si è realizzata poi nel corso degli anni tra il 2006 e il 2009, quindi è abbastanza di recente la definizione del tutto, ci sono ancora dei lavori da fare. È persino più grande, perché si estende su un'area complessiva di quasi un ettaro tra coperto e scoperto, ed è anche questa una struttura storica monumentale vincolata, che era stata abbandonata anche questa, perché la Tonnara era in disuso dagli anni 50, e l'abbiamo quasi finito di risistemare, diciamo risistemata per due terzi, con un grosso investimento nel corso degli ultimi 4 anni. Quindi questa è un'esperienza più recente, direi ancora più complessa della prima, se non altro per le dimensioni. Ho capito. Senta, lei fa l'imprenditore, ma c'è una differenza, e credo che ci sia, tra fare l'imprenditore a Milano e fare l'imprenditore a Firenze e farlo a Palermo? Qual è la differenza secondo lei? Quali sono i punti disgreganti nel fare, come dire, anche dissuasivi nel fare l'imprenditore a Palermo, dottor Coppola? Ma io non ho mai fatto imprenditore a Firenze o a Milano, ho sempre fatto a Palermo, e devo dire che non l'avrei fatto a Milano, perché per me fare imprenditore significa avere dietro una forte spinta ideale, quindi per me il mio posto è Palermo e mi interessava fare qualcosa qui. Detto questo, per inciso, quindi il mio giudizio sarà magari riferito a cose di miei amici che conosco e non dirette, devo dire che a mio avviso le difficoltà qui si moltiplicano per 10, intanto perché la burocrazia è spaventosa ed appesa al mercato, non è che in Italia e negli altri luoghi sia meglio, ma sicuramente tra Firenze o Milano e Palermo c'è un abisso. Di quello mi riferivo, sì. E poi anche perché qui si è costretti a entrare in dinamismi, in dinamiche di conoscenze più o meno politiche, ridicole, che non servono nei posti normali. Cioè, a Milano, a Firenze, uno non deve conoscere mezzo consiglio comunale per fare una cosa. Insomma, qui è il classico detto, mi manda picone, ecco. Oppure sì, insomma, diventa, è quasi imbarazzante, uno deve confrontarsi con realtà sconosciute, più o meno piccoli poteri che cercano di influenzare qualsiasi ramo dell'attività economica della città. Devo dire, quando io ho cominciato al Calesa era meglio, perché si usciva una stagione di grande rinnovamento, c'era poi, insomma, la fine del periodo Orlando, poi il commissario, insomma era meglio. Poi c'è stato, devo dire, un ulteriore imbarbarimento della vicenda, non è migliorata la cosa, insomma, mi pare. Senta, dottor Colmone, lei sa perfettamente meglio di me che in Palermo, ma in tutta la Sicilia, abbiamo un retroterra culturale non indifferente. Lei presume, dalla sua esperienza di imprenditore presente al Calesa, visto gli appuntamenti culturali che c'è un, come dire, un ritorno della gente verso la musica, verso la cultura, verso il libro? Come vede lei il movimento culturale? Parliamo di Palermo perché è lì che è locato, voglio dire, la location del caffè. Come vede in questo momento la vicinanza alla gente, si comincia a riparlare un po' di cultura verso la musica, interesse verso la cultura in generale? Come vede lei il panorama? Ecco, come lo inquadra come gestore di un caffè letterario, tutto sommato? Ma guardi, c'è stato un momento particolarmente felice appunto alla fine degli anni 90 e anche all'inizio degli anni 2000, per la verità, con Calzart e quant'altro. Poi questa cosa si è un po' spenta, un po' perché il Comune ha smesso di fare da propulsore con i fondi propri delle iniziative culturali e un po' perché questo tappo spaventoso della burocrazia ha in qualche modo fermato queste energie vitali che comunque in città rimangono. Ora mi pare che sia un periodo di transizione, non soltanto perché ci sono le elezioni alle porte, e quindi spero che il tappo salti prima o poi, perché in realtà sembra davvero una città con un grande tappo sopra che non consente l'espressione culturale libera. Non è un caso che persone come Emma Dante ormai siano quasi sempre praticamente fuori dalla Sicilia e si esprimano meglio fuori che qui. Questo è un po' un refrain continuo, no? Il grande artista qui non riesce a esprimersi. Nemo profeta in patria. Esatto, sì, però che nella cultura è molto peggio che in altri settori, perché diciamo, le espressioni culturali quasi sempre sono legate al territorio, a quello che esprime il territorio, quindi andare a fare il profeta in altre patrie, insomma, è poco interessante. E spero che questa, ripeto, che salti il tappo e che il magma fuoriesca e che si ricominci a produrre, a esprimersi, insomma. Per esempio sulla musica, segnatamente la nascita di due o tre importanti etichette discografiche in Sicilia sono un buon segnale, ci sono gruppi interessanti, però poi non sanno dove suonare. Ecco, è quello il problema, siamo sempre lì, dottor Coppola. Però cercheremo tutti quanti insieme, chi fa mass media come me, chi fa l'imprenditore come lei, che siamo particolarmente sensibili alla cultura, di qualsiasi parte di cultura si parli, dalla pittorica alla scultorica, a quella musicale, alla letteraria, insomma, voglio dire, dovremmo dare, anzi daremo sicuramente un apporto per far conoscere questi gruppi, ma anche per mettere a disposizione lei con la sua location e chi poi le sta parlando tramite le radio e le televisioni, far conoscere questi personaggi che sicuramente hanno uno spessore culturale non indifferente e nulla da invidiare agli altri fuori dai confini della Sicilia. Torniamo un attimo alle ultime domande, perché so che lei è molto impegnato nel suo lavoro e non le voglio fare perdere tempo. Naturalmente le strappo una promessa, dottor Coppola, questa gliela devo strappare in diretta radiofonica con i nostri radioascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Io avrei il piacere, so che lei ama molto le Madonie, ha delle proprietà nei pressi delle Alte Madonie, per cui ama particolarmente questo territorio. Io l'invito ad averla qui in trasmissione, perché avremo più modo, insomma, di parlare in maniera più pacata, più tranquilla, di tutto quello che lei fa come imprenditore, di tutto quello che propone a chi viene a trovare, naturalmente viene a trovarla al Calesa, ma anche poi a partire da maggio-giugno lì alla Tonnara. E un'ultima domanda prima di congedarla, dottor Coppola. La prima è questa: in questo mese di marzo cosa c'è di particolarmente succulento, cosa bolle in pendola al Calesa, cosa abbiamo da poter proporre a chi da Cefalù, da Castelbuono, alle Madonie, da Messina, da Capodorlando vorrebbe venire a passare una serata tranquilla e rilassante al Calesa? Ma guardi, per esempio stasera abbiamo la concomitanza di diverse cose, perché abbiamo la presentazione di un libro che secondo me è abbastanza interessante, se non altro nel titolo, rispecchia un po' il momento politico e che si riferisce, e tra l'altro è di una piccola casa editrice che ci piace sempre presentare, che fa cose abbastanza provocatorie, e la casa editrice si chiama Fuori Onda Già è tutto un programma. Il libro si chiama Sua Maestà Siciliana Raffaele Lombardo. Dottor Coppola, diciamocelo, va. Un titolo spiritoso. Molto spiritoso. È attinente, esatto. Peraltro. E stasera stessa abbiamo La Sette, che fa una trasmissione, insomma, una rete televisiva importante nazionale, che fa qui un collegamento, interviste. Per questa trasmissione che si chiama La Mala Educazione, preso da questo film di Almodovar. Quindi per esempio stasera è una prima occasione succulenta legata a due cose interessanti. Poi ci abbiamo concerti live tutto il mese di marzo, il venerdì e la domenica. Abbiamo un bel palinsesto. Sì, con stagioni varie, diciamo, che si susseguono, ma diciamo, tutto il mese di marzo ci avremo queste cose. Abbiamo varie presentazioni di libri, a parte quella di stasera, praticamente una settimana per tutto il mese. Abbiamo avuto, peccato che è già passato, abbiamo avuto Henry De Luca la settimana scorsa, che è un grande nome della teatro italiana. Insomma, e continueremo così su queste programmazioni abbastanza importanti. Poi da giugno parte la stagione della tornata di Vergine Maria, come diceva, e lì avremo concerti estivi, ma ancora non posso anticiparle. No, per carità, se no togliamo la sorpresa, ma che stiamo scherzando. No, lo diremo a tempo e luogo, dottor Coppola. Senta, un'ultimissima, proprio stringatissima domanda. Per i giovani che vorrebbero, usiamo il condizionale, affacciarsi nel mondo dell'imprenditoria, della ristorazione o di un caffè letterario o di altre idee, qualsiasi esse siano, secondo lei è il momento opportuno? Possiamo dire, ragazzi, buttatevi, o ci sono un po' di remore a dire una frase del genere? Insomma, il periodo non è dei più felici, anche se ci sono proprio per questo motivo varie opportunità di luoghi anche in vendita, tutto sommato interessanti. Certamente credo che nel capitolo delle liberalizzazioni siano contenute anche delle novità interessanti per chi vuole fare una nuova impresa, nel senso agevolativo, di meno complicazioni burocratiche, e questo aiuterà senz'altro. Ripeto, è uno dei problemi principali, perché non ha idea quello che si passa, lei fa il giornalista, quindi lo saprà anche lei, però insomma, quello che si passa per avere... Non sono nel mio piccolo anche un piccolo imprenditore, cosa infernale, quindi devo dire che il confronto è impietoso con altre realtà europee rispetto a Palermo, bisogna ricordarsi che siamo comunque pur sempre in Europa. Ecco, se questa cosa, come pare, già a partire da questo decreto sulle semplificazioni migliorerà, certamente per i giovani sarà più semplice. Io credo che il principale problema sia la burocrazia. Per fortuna altre cose, tipo la pressione mafiosa sul territorio, sono invece negli anni ampiamente diminuite, quindi sicuramente almeno nella città di Palermo, nel centro, questo rischio è molto meno presente. Invece le complicazioni burocratiche sono peggiorate, e spero che questa manovra ultima, recentissima, che riesca a mettere mano a questa cosa. Dottor Coppola, io le devo dare una notizia in diretta che sto leggendo in questo momento dalle agenzie che battono in tempo reale le cose che succedono nel mondo. Purtroppo è morto un grande cantante, un grandissimo musicista in Italia, ed è morto, ahimè, Lucio Dalla. È stato stroncato da un infarto, aveva 69 anni, lo ricordiamo tutti nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Ci dispiace molto, ci associamo al dolore dei familiari, anche se non li conosciamo, perché ha dato all'Italia uno spaccato di musicalità, di canzoni che resteranno indelebili nella mente, nella mente di tutti. Dottor Coppola, io la ringrazio sentitamente per la sua disponibilità. Grazie a lei, e presto. L'attendo la prossima, vediamo nei prossimi giorni, ci sentiamo fuori onda con il numero di telefono per contattarlo, la contatterò io personalmente, e avremo il piacere di averla qui finalmente ospite dei nostri studi. Grazie, intanto presto, arrivederci. Grazie a lei, buon lavoro. Allora, dicevo, una canzone, una notizia veramente brutta, questa è una notizia che lascia veramente un vuoto, lo si dice sempre ogni volta che muore un personaggio della cultura, della televisione, del mondo della musica, ma Lucio Dalla con 4 marzo, insomma, è una canzone che ha fatto piangere molte persone, ma um, È nato il 4 marzo, sì, sì, è la data di nascita del 4 marzo, quindi compiva forse 70 anni il 4 marzo. Con questa canzone, però, insomma, ha vinto Sanremo, ha fatto delle cose molto belle. E dunque, un infarto, non c'è altra nota che possa spiegare la dipartita di Lucio Dalla. Lo ricordiamo tutti nel 62esima edizione del Festival di Sanremo. Ma con lui, insomma, muore una parte veramente importante. Poi amava moltissimo la nostra Sicilia. A Catania aveva fatto un centro di registrazione e aveva una casa, possedeva una casa, e è venuto anche nelle Madonie. L'anno scorso era stato a Castelbuono, dove si è esibito con il clarinetto insieme a un sax famoso del jazz internazionale, a proposito del Jazz Festival di Castelbuono. Per cui una persona umilissima, una persona che eclettica per molti aspetti, amava vestirsi in modo stravagante, cambiandosi anche le scarpe una da un tipo una dell'altra. Comunque lo ricordiamo come un grandissimo cantante, come un grandissimo musicista, ma lo ricordiamo anche come, anche se era piccolino di statura, come un grande, grande uomo che ha dato all'Italia delle canzoni veramente straordinarie. Chiudiamo un attimo questa parentesi prima di salutarci. Desideravo invitarvi pranzo cena al ristorante ai sapori di mare, frutti di mare ricci, crostacei cotti e crudi, pesce fresco, vendita di frutti di mare e crostacei. Lo trovate dove? A Lungomare Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese. Telefono per le prenotazioni 091 811 1447. Servizio catering, aperti tutti i giorni pranzo e cena, menu personalizzati per cene e pranzi di lavoro, compleanni e ricorrenze varie. Poi se volete la carne ottima, buona, di qualità, dovete andare dalla cooperativa IACC di Farinella in via Nazionale 60 a Gangi. Li troverete carne bovina, suina, agnello, castrato e pollo, ma anche lavorazioni di questo tipo, di queste carni fatte con salsicce per esempio stagionate, ma anche salsicce fresca come salame felino, salame cacciatorino, oppure il rollo di vitello, pollo e tacchino, o la rista al pistacchio, o involtini di vitello. Insomma, troverete lì davanti ai vostri occhi veramente un palmarès straordinari di bocconcini da mettere sotto nel vostro palato, e mangerete veramente una carne genuina con i pascoli, come dico sempre, incontaminati delle nostre Madonie. Cooperativa IACC di Farinella, lo trovate, vi ripeto, in via Nazionale 60 a Gangi. Il telefono ve l'ho dato, vi do l'email nel caso in cui volete scrivere qualcosa, ed è santifar79@live.it. Se invece volete azzerare, togliere totalmente la bolletta del telefono, dovete far altro che chiamare Medielettra in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia. Chiamate il numero verde di questa azienda 800 111 341, perché parliamo di fotovoltaico, parliamo di pannelli solari, che pensate, con il sistema SunPower l'azienda garantisce l'installazione per 20 anni. Non solo producete l'energia elettrica per voi tagliando così la vostra bolletta, l'energia in più che produrrete l'Enel, una volta completato l'iter, vi restituirà i soldi e quindi avete anche una fonte di guadagno. Ricordate quindi, Medielettra lo trovate in via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccia. Chiamando il numero verde 800 111 341, vi daranno tutte le informazioni, verranno dei tecnici a casa vostra, vi faranno il preventivo, farete l'installazione, azzerando così la vostra bolletta, e nel tempo poi invece guadagnerete anche dei soldini per la produzione in più di energia che voi fate tramite i pannelli solari della Medielettra con il sistema SunPower. Dunque, di Varese a Castelbuono per cessazione attività, liquidazione straordinaria del 70%, 80%, 90%, con scarpe, borse uomo e bambino, della Geox Carlo Pignatelli le firme, oppure Gherardini per i bambini, Geox Primigi e Lulu. Dunque andate a Castelbuono, trovate di Varese, negozio straordinario con gli sconti per cessazione attività del 70%, 80% e 90%. Mi pare che questa era l'ultima che dovevo annunciare. Abbiamo finito in questo momento. Ringrazio gli ospiti che sono stati anche se telefonicamente presenti in trasmissione, il dottor Lama per quanto attiene il SEL, questo partito che sta portando avanti delle prospettive, devo dire, interessanti. Abbiamo ascoltato quello che aveva da dire in risposta a quello che aveva dato come risposta il segretario del PD locale di Cefalù sulla proposta fatta dal SEL e dal dottor Lima di fare le primarie anche a Cefalù. Se il segretario della locale sezione del PD volesse rispondere nella prossima puntata, i microfoni e i nostri telefoni sono a sua disposizione. Ringrazio il dottor Francesco Coppola, che il titolare, il gestore del Calesa, questo grande caffè letterario, ristorante di Cefalù e della Tonnara, altra location di tutto riguardo sotto Monte Pellegrino. Ci fermiamo qui, è stata una giornata intensissima, abbiamo parlato tantissimo di problematiche e tematiche attinenti alla politica e quello che la politica dovrebbe fare e che non ha fatto fino ad oggi. Io vi do l'appuntamento a domenica per le 9.30 per la differita di questa puntata. Ringrazio alla console come sempre il mio amico Raul Bova, ringrazio tutti quanti voi di sponsor, arrivederci alla prossima puntata, sempre giovedì al mezzogiorno circa. Ciao da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di